Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 7 settembre, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione di questo programma, ma qui con me c'è anche Antonella Cortese. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Caterina. Come sapete, il nostro programma che fa da ponte tra il carcere e la città, ora in onda su Radio Città Fujiko e poi sull'Epida TV canale 118 e il canale Teletricolore canale 636. Apriamo sempre con la rassegna stampa, una bella notizia locale, anche se è passato qualche giorno, ma resta comunque importante perché, come sapete, il teatro è sempre senza tempo. Leggo dal Corriere della Sera di Bologna: memorie di Mani al fratello, padre e figli, secondo Paolo Billi. Dal 31 agosto nel cortile dell'Istituto Penale Minorile lo spettacolo scritto assieme a Sulle Mani. Come ormai a molti di voi, quelli che ci ascoltano, è noto, non solo alla cittadinanza ma anche per chi ci ascolta dalle camere detentive, il Teatro del Pratello lavora da oltre 18 anni con progetti di teatro e carcere rivolti sia a minori sia ad adulti, detenuti o con misure alternative. Operano all'IPM femminile di Pontremoli e anche a quello di Bologna, il Pratello, e con i ragazzi dell'area penale esterna. Memorie di Mani è questo nuovo spettacolo diretto quindi da Paolo Billi nel carcere minorile. Ci sono spunti da favole di Giambattista Basile, dai fratelli Grimm, ma anche pagine di filosofia pura. Ci sono dei contenuti particolari, padri che tagliano le mani alle figlie, come tratto dalla storia appunto dei fratelli Grimm, e figlie che amputano gli arti di fronte alle tentazioni sessuali dei fratelli. Ci sono Svevo, Pirandello, altri autori, ma anche la box giocata sul ring e anche una lotta ritualizzata con le mani che seguono traiettorie e regole precise. Questo spettacolo si è visto dal 31 agosto al 3 settembre all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Via del Pratello e è il primo studio di uno spettacolo che sarà presentato nella versione definitiva il 4 gennaio del 2022 nella Sala Piccola dell'Arena del Sole. Caterina, però so che c'è una novità, vero? La novità è che di solito prima veniva realizzato il lavoro in teatro con i giovani affidati alle comunità esterne al carcere e poi questo spettacolo dal teatro veniva trasposto alle mura del Pratello, quindi in carcere. Adesso è proprio il contrario, parte in carcere, quindi ci saranno i visitatori, gli spettatori che faranno l'accesso direttamente al carcere del Pratello e poi il 4 gennaio andranno a vederlo in teatro all'Arena del Sole. E questo avviene chiaramente a causa della pandemia, ma anche per un nuovo investimento nell'attività dentro l'istituto che presto amplierà il numero dei ragazzi ristretti. In scena quindi abbiamo 15 ragazzi o giovani adulti ristretti al Pratello e le scene sono di Irene Ferrari e sono state realizzate con i ragazzi dell'Arena Penale esterna al carcere con la collaborazione di Elvio Pereira di Assuencao e a Francesca Dirani. Le luci sono di Flavio Bertozzi. È uno spettacolo che dopo Eredi eretici e Le orme dei figli conclude un ciclo con Memorie di Mani e pone sempre al centro il rapporto tra figli e padri con protagonista proprio la mano e i suoi poteri, i suoi saperi, le capacità evocative. È stato scritto con la collaborazione di Sulle Mani, che è un minore conosciuto da Paolo Billi 10 anni fa all'IPM di Bologna. Caterina, ma come nasce questo connubio? Guarda, è una storia un po' particolare. I due, quindi Paolo Billi e Sulle Mani, si sono incontrati in un carcere adulti e nel 2021 si sono scambiati un epistolario in cui si è sviluppata la riscrittura di questo testo teatrale, rielaborando diversi spunti letterari, da Svevo a Pirandello, nella composizione del terzo atto dello spettacolo. Memorie di Mani, come spiega lo stesso Billi, è un divertissement, diciamo, in 5 momenti. Si passa dall'attonito al macabro, all'ironico, al tragico, al soave. E tutto prende avvio chiaramente dalla fiaba dei Grimm, La ragazza senza mani, in cui un padre, per salvarsi dal demonio, fa una promessa

La Medina, per esempio, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1985 ed è inevitabile perdersi tra i vicoli polverosi e i negozi che vendono di tutto. Nella Medina, tra l'altro, si beve solo tè, ma si beve veramente dappertutto perché te lo offrono. L'alcol è proibito e gli edifici non possono superare i 3 piani di altezza. Nei souk della Medina bisogna lasciarsi trasportare dagli odori, dai suoni, dai colori, mettendo da parte il senso dell'orientamento e lasciando correre. Io infatti mi sono immediatamente persa, dato che ho anche un senso dell'orientamento insomma non particolarmente forte, e però è stato proprio bello perdersi in queste strade, in questi vicoli. E i negozi del souk sono aperti tutti i giorni, tra l'altro fanno un orario lunghissimo dalle 9 alle 22 tranne il venerdì pomeriggio. Nel souk si contratta, si scambiano 2 parole, si beve il tè alla menta molto zuccherato, squisito, e intanto si parla di prezzi a lungo, e lo si fa senza fretta. A noi sembra una cosa un po' strana, una perdita di tempo, mentre per i locali la trattativa è una cosa seria. E ogni sezione del souk, tra l'altro, porta il nome di un prodotto che offre, tipo abbigliamento, spezie, pantofole, tappeti, lana, legno, insomma le varie cose che vendono, oppure degli artigiani che ci lavorano, tintori, falegnami, fabbri, eccetera. Poi c'è la piazza Jama El Fna, tranquilla e sonnolenta al mattino, che con il trascorrere delle ore invece diventa affollata di venditori di ogni genere, dalle donne che fanno i tatuaggi con l'henné, ai commercianti d'acqua, ai carretti che offrono spremute d'arancia, ai fornitori di protesi, e vi dico la verità, mi hanno alquanto impressionata, o ai venditori di pozioni afrodisiache. Molto interessante anche il quartiere ebraico della città, di cui ho parlato all'inizio con Elia Scanetti, il Mellà, dove si trova la sinagoga, unita al grande cimitero e al mercato coperto. E alcune delle case, tra l'altro, hanno balconi che si affacciano sulla strada, una peculiarità del quartiere ebraico di Marrakesh. E Antonella, c'è anche la parte della città nuova, vero? Sì, uscendo dalla città vecchia si arriva nel cuore della Ville Nouvelle. Il suo simbolo è il quartiere Guelis, con palazzi moderni dove vivono la maggior parte degli stranieri. E però i profumi, gli aromi marocchini si trovano al mercato centrale. Tra l'altro è da ricordare anche il minareto della Koutoubia, la famosa moschea con il minareto a base quadrata costruito nel XII secolo. L'ultima cosa che vi voglio ricordare è il Musée de Confluence, nato come residenza di Tami El Glaoui, chiamato il Pascià di Marrakech, che si trova proprio nel cuore della Medina ed è considerato uno dei palazzi più belli della città ocra e ha un giardino incantato e meraviglioso. E Caterina, io vorrei continuare con i Rolling Stones però adesso, perché l'abbiamo certo. Dedicata tutta la settimana a stavo questa per perdita. E infatti ho detto, continuiamo con loro e continuiamo con una canzone meravigliosa che è Wild Horses del 1971. Wild, wild horses. Bentornati, sempre su Liberi Dentro e Duradio e TV, e siamo con il nostro ospite Paolo Aleotti, come vi dicevo, giornalista documentarista per la RAI da vari anni e che conduce a Milano il laboratorio Teleradio Reporter al carcere di Bollate. Buongiorno Paolo, bentornato. Buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, in questi giorni in cui sei ospite su Eduradio TV, stiamo passo passo seguendo la tua biografia, la tua storia che ti ha portato a incontrare volti sempre nuovi e anche posti sempre molto diversi e anche luoghi della sofferenza, come per l'appunto le carceri. L'ultima volta ci siamo lasciati con il tuo racconto dagli Stati Uniti quando incontrasti 5 condannati a morte. E poi, dopo vari anni, una volta rientrato in Italia, il carcere lo hai incontrato di nuovo, si può dire, no? Sulla tua strada. Com'è successo? Sì, diciamo che per fortuna non sono veramente finito in carcere, ma qualcosa di molto simile. Quando sono tornato ho cambiato totalmente il mio punto di osservazione, non ero più negli Stati Uniti, non ero in un grandissimo paese che però ha delle caratteristiche anche molto facili in fondo da andare a scovare e per Ballarò sono andato, la trasmissione televisiva condotta da Giovanni Floris, sono andato in Medio Oriente molte volte e lì ho cominciato a fare una serie di reportage, dico la verità, pericolosissimi. Il primo è stato nella striscia di Gaza ed è lì che per la prima volta mi è capitato di essere praticamente preso prigioniero da una serie di giovanissimi soldati israeliani che mi puntavano il mitra addosso e per 6 ore hanno minacciato di mettermi appunto nelle loro galere. E questo però per fortuna si è risolto abbastanza rapidamente. Il secondo episodio poi è stato un episodio invece legato a Beirut, al Libano, dove eravamo stati invitati proprio Giovannino Floris ed io per andare lì a fare, diciamo così, una visita di cortesia a Mishba, che è un importantissimo parlamentare che parla benissimo l'italiano, libanese. Ebbene, eravamo così tranquilli di essere come a casa nostra che girellavamo con la nostra telecamerina, ma così come quasi come turisti un po' scemi, e dovevamo andare a parlare con un Hezbollah che ci aveva invitato. Ma al di fuori di questo, della sua magione, successe proprio che dei ragazzi, anche qui giovanissimi, ci hanno bloccato, fermato, tolto in maniera molto brutale la telecamerina, che era una telecamerina così tanto per fare, e ci hanno messo in una stanza bianca, chiusa. Eravamo io e Giovanni, assolutamente, oltretutto, a digiuno di qualsiasi lingua che potessimo parlare, e avevamo per fortuna Lorenzo, che era il nostro traduttore, ci ha aiutato. Abbiamo chiamato dopo 8-9 ore per questo Mishba, questo senatore, e che è venuto a salvarci, a tirarci fuori da lì. Però non è stato, dico la verità, semplicissimo, proprio per niente. E questa cosa ci ha un po' sconcertato, ci siamo sentiti veramente come dietro le sbarre stavolta. Quindi stavi veramente rischiando di finire anche tu in carcere. Sì, a volte gli strumenti del mestiere fanno paura delle volte. Molto, sapendo oltretutto che lì le carceri non sono un granché, nel senso che poi la libertà delle persone è molto calpestata, che non c'è nessunissimo controllo, e quindi diciamo che forse per la prima volta mi sono sentito, come dire, a fianco dei nostri amici detenuti. Paolo, è il momento di lanciare una canzone, io come sempre lo chiedo all'ospite, che cosa abbiamo oggi? Dunque, io ho pensato, proprio perché quando vado nei luoghi cerco di ascoltare le musiche del posto, quando ero andato in Israele ascoltavo Noah, e di Noah mi è venuto in mente quella bellissima canzone che non è dedicata al carcere, ma insomma La vita è bella, la colonna sonora della vita è bella di Benigni, che è cantata appunto da Noah e che ricorda appunto dei momenti di grandissima difficoltà di persone che erano in carcere nei campi di concentramento. Ascoltiamola. That slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Ooh, what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. E rieccoci sulle note di Noah, Smile. Siamo sempre con Paola Leotti e stiamo parlando delle tue memorie dai tuoi viaggi in Medio Oriente. Io avevo una domanda da farti, perché l'ultima volta ci siamo lasciati dagli Stati Uniti, posti molto diversi, in realtà molto molto diverse fra loro, quindi che sensazioni hai avuto anche tu in questo passaggio da un luogo all'altro? Ecco, la sensazione, l'anticipavo un po' prima, è proprio questa di passare da un mondo che un po' conosciamo benissimo, quello americano, attraverso i film e le pellicole che ce li presentano, e che insomma, quando si va lì sembra di vivere dentro un film e sembra un po' di conoscere le cose, poi così non è davvero, e però questa sensazione resta. Al contrario, quando sono arrivato in Medio Oriente ero totalmente disorientato, e avevo questa sensazione di grandissima precarietà, questo fatto di poter scomparire da un momento all'altro senza che nessuno se ne accorgesse, che nessuno mi recuperasse. È una sensazione, non so come dire, brutta a dirsi, nel senso che poi non è così, non voglio accusare in nessun modo il Medio Oriente di essere così, e il problema era mio, era la mia non conoscenza dei luoghi. Questo però, dall'altra parte, mi ha spinto in maniera molto potente ad acuire la mia curiosità, ad acuire la mia attenzione, ad acuire il fatto di andare a vedere le cose che non capivo, che non conoscevo. Ripeto, c'era questa sensazione che forse non avrei mai capito, e questo mi dispiaceva anche un po'. E però contemporaneamente c'era la voglia di andare dentro le cose. Questa voglia, dico la verità, probabilmente si riconosceva anche perché ho vissuto lì degli scenari di grande povertà, di grande timore, paura e tutto il resto, ma quando per esempio appunto ero andato in Israele, poi ero andato a Betlemme, e andavamo a fare per Ballarò questi reportage all'interno di casupole scassatissime, e io cercavo veramente di accostarmi a queste persone, di capirle, tanto che sembrerà una barzelletta, ma non è così, tantissimi dicevano: perché non ci porti con noi, con te in Italia, ci riporti via? Perché sentivano questa vicinanza e questa voglia di comprendere, di raccontare davvero quella realtà. In ultima battuta, siccome anche io ho un ricordo condiviso con te di due viaggi in Medio Oriente molto lunghi e anche affascinanti, io ho la memoria del tempo, di questo tempo enorme a disposizione delle persone per ascoltarti e anche per parlarti. Tu che impressione hai avuto della gestione del tempo? Assolutamente diversa appunto da quello, non so, a New York c'è il tempo, devi correre, devi andare, devi fare, e in tutte le altre parti dell'America il tempo è molto cadenzato, lì no, lì viene quello che viene, e appunto puoi anche permettere di parlare per ore e ore con le persone senza che ci sia davvero poi uno scopo, solo perché non c'è il tempo che ti prende, che ti possiede, diciamo, sei tu che possiedi il tempo e puoi fare quello che vuoi. Padroni del tempo. Paolo, grazie, grazie anche di questo tempo che ci hai dedicato su Liberi Dentro e Duradio TV. A me viene in mente una canzone, ho sempre avuto nelle orecchie J-Ho mentre mi stavi parlando del Medio Oriente, quindi ascoltiamola. A presto. Grazie, arrivederci. Oh, Eccovi, concludiamo il nostro martedì dandovi l'appuntamento alle rubriche di oggi. Avremo i dialoghi sulla cittadinanza a cura di Ignazio De Francesco con la prima parte del documentario di Lorenzo Tanzani, Nel bene e nel male, Dio in carcere, un documentario che è stato registrato proprio al carcere della Dozza di Bologna. Io, Antonella ed Enea Flacco vi salutiamo tutte e tutti, vi invitiamo a scriverci, redazione Liberi Dentro, @gmail.com, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, per chi volesse inviarci una posta. A domani e restate con noi.